Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Il vostro numero verde 800 24 00 24 per intervenire in Palla Spicchi. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sta arrivando anche coach Peterson. Intanto oggi qui con noi, nostro ospite, c'è l'allenatore più creativo d'Italia, che non è italiano ma macedone, Zara Markowski, buongiorno. Buongiorno a voi. L'unico insieme a coach Dan Peterson a centrare una finale scudetto, come vi ricorderete, con la banda Bassotti, come il Billy 78-79. Coach, ciao! Ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. C'è Zara Markowski qui con noi, coach. Zara, come andiamo? Bene, bene, coach, come sta lei? Bene, bene, bene. So che Zara abita a Milano, se non sbaglio, siamo concittadini ormai. Infatti abbiamo scambiato già le battute qua con Carlo. Sono proprio vicino qua alla radio. Ah, okay. È un nostro vicino di casa, coach Zara Markowski. Va bene, ok. Intanto io qui, cioè, due allenatori che sono arrivati in finale scudetto con la banda Bassotti. Billy 78-79, D'Antoni, due Boselli, Ferracini, Gallinari, Sylvester, Kupek, ta ta ta ta ta. E Zara Markowski con la Virtus Bologna qualche anno dopo nel 2006. Besti, Lievski, Di Bella, Vukcevic, Giovannoni. È un evento più unico che raro. Due allenatori in finale scudetto con le bande Bassotti. Well, Zara ha fatto un capolavoro, questo è sicuro, perché mi ricordo la primissima partita di quel playoff che Zara ha giocato contro Biela, ha perso la partita e sembrava il mega disastro, perché sembravano eliminate proprio da quello lì, anche se nel 3 sul 5 poi rimontato, vinto quello, vinto il semifinale, andato in finale, è veramente un capolavoro di lui e anche della squadra, veramente complimenti a loro. Mi fa piacere, coach, che si ricordi in dettaglio quel playoff, perché sono onorato che lei ha seguito e si ricorda di quello, visto che lei e magari quello è la risposta. Lei è stato il mio idolo nella gioventù, ho mangiato i suoi libri e mi fa piacere che lei si ricorda di... Ma mi ricordo benissimo, veramente. Poi portami uno di quei libri, ti faccio una firma, ok? Va bene, grazie. Grazie. L'unica differenza è che poi quel Billy fu la base di partenza per una squadra che per 10 anni ha dominato tutto. Adesso invece la pazienza non c'è più, e quella Virtus è un ricordo così estemporaneo, Zare. Sì, purtroppo un ricordo estemporaneo, e come ha detto coach prima, non ci sono più i tempi di programmare e magari di costruire nei prossimi 10 anni. Sinceramente non si è ancora capito perché non si poteva continuare, visto che sono stati 2 anni bellissimi e alimentati dei successi addirittura. Perciò oggi allenatore, la sua programmazione dipende molto dalle cose esterne più che del lavoro svolto. A proposito di programmazione o di mancata programmazione, coach, il caso del momento è quello di Roma, 3 sconfitte naturalmente, 3 sconfitte in fila in campionato, 4 in fila in Eurolega, pesanti contestazioni. Qual è la tua opinione, coach? Well, ovviamente, come hai detto tu anche, Carlo, la pazienza non è più di casa, perché se tu hai citato con la mia squadra, io sono stato lì 9 anni con D'Antoni, tutti 9 anni, Franco Boselli 9 anni, Gallinari 9 anni. Perché queste sono cose che non esistono più, quindi c'è sempre la fretta di fare qualcosa e anche subito. Roma ovviamente si trova in una crisi incredibile di mancanza di fiducia, ovviamente Gentile, povero lui, si trova proprio in mezzo di questo, e io e Zare, che abbiamo fatto il corso, che sappiamo quanto è pratico per un allenatore vivere questi momenti qua, quindi Gentile non ha un lavoro facile per niente, la società gli ha dato fiducia, ma sappiamo queste cose cambiano secondo i risultati. Poi dopo la sconfitta di ieri e la potenziale trasferta di domenica, cioè, lui sta vivendo momenti tragici. Ha detto lui, bisogna vincere una partita, purtroppo sembra banale, ma questa è la verità. Coach, senti, tu hai visto anche Milano questa settimana che ha vinto contro Oldenburg, Milano che deve cercare un giocatore, e quindi ti domando, secondo te che tipo di giocatore ci vuole e soprattutto quanto è difficile trovarlo in questo contesto? Guarda, innanzitutto Milano, secondo me, ovviamente Oldenburg magari non è un test esattamente provante, però hanno vinto la partita, era una partita determinante, hanno vinto anche bene, anche erano più 25 lì un attimo, e hanno fatto 22 assist nella partita, quindi questo indica un ottimo gioco di squadra che hanno passato la palla. Ovviamente quello che manca a loro è un terminale, un giocatore capace di fare i suoi punti, e quindi loro stanno soffrendo tantissimo questo fatto qua adesso, che non hanno una persona veramente tutto fidabile. Pirlo è fidabile per fare i punti, però l'hanno chiesto lui fare un altro tipo di lavoro, e quindi è tutto una cosa estremamente complicata per me adesso. Io penso che loro stiano cercando veramente uno capace di segnare, cioè, oppure un pivot puro, perché Petrovic ha avuto gli alti e bassi, poi anche gli infortuni, quindi è una situazione un po' movimentata, oppure un playmaker puro. Loro hanno tre scelte, ma penso che gli serve forse di più, perché io sono grande credente nell'attacco. Tutti parlano della difesa, ma io credo che l'attacco sia il segreto di tutto il basket. Chiedi a qualsiasi giocatore, la migliore, quando lui giocava benissimo in attacco, ha giocato anche benissimo in difesa, perché aveva fiducia, si divertiva con le cose lì, c'è proprio lì, e hanno bisogno di uno di fare punti, perché se uno fa punti tutta la squadra gioca bene a conseguenza di questo. Quindi certo, io sono certo che c'è un tipo alla guardia capace di segnare. Grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao Zara, un abbraccio. Ciao, okay? Coach, grazie. Ciao. Grazie coach Dan Peterson. Zara, tuo pensiero su Milano. Tra poco il traffico, però prima tuo pensiero su Milano, poi approfondiamo il discorso. Serve un giocatore che fa punti, dice coach. Probabilmente un giocatore a gettone, perché Hacker verrà conservato, verrà aspettato ancora. Manca però in questa squadra ancora il terminale offensivo principe. Non arriverà ora con il gettonaro, però manca il terminale offensivo. Sì, ma è difficile che il mercato in questo momento dasse a Milano qualsiasi giocatore che potrebbe cambiare o migliorare la squadra. Loro hanno fatto strategia prima della stagione, devono seguirla, e fino al ritorno di Hacker sicuramente devono cercare di traghettare soltanto. Palla spicchi. Torniamo, io stavo leggendo anche un sacco di messaggi, alcuni dei quali riguardano la situazione del nostro basket della nazionale. Nazionale. Beh, c'è un piccolo aggiornamento, c'è insomma, l'aggiornamento è che pare che si sia pronto allora questo triennale per Pianigiani coach part time, almeno fino alla scadenza del contratto di Pianigiani con Siena. Pare anche che verrà ingaggiato un altro allenatore full time questa volta per seguire il lavoro. Tutto dovrebbe essere deciso nel prossimo Consiglio federale, insomma, queste sì, sono le il 16 esatto. L'investitura di Simone Pianigiani. Cosa ne pensi, coach? Io sono contento. Part-time, secondo te, buona soluzione? Sì, anche part-time. Per me è importante che, permettetemi di dire, visto che sono 20 anni in Italia, che l'allenatore della nazionale sia italiano, perché non è possibile che stiamo esportando allenatore della nazionale campione d'Europa, cioè Scariolo, che stiamo esportando allenatore più titolato negli ultimi anni in Messina, e che la nostra scuola italiana non ha allenatore della propria nazionale. Sì. Che Pianigiani in questo momento da 3 anni è maggior prodotto che c'è, sicuramente, e ovviamente dare la nazionale a lui. Primo ascoltatore di oggi, Fabio da Pavia, buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Vorrei salutare con affetto il grande, l'ottimo Dario Marcoschi, ricordarlo nei suoi primi anni in Italia sulla panchina di Sassari. Grazie. Buongiorno Dario. Buongiorno. E a proposito di Sassari, vorrei spendere 2 parole sull'ottimo inizio di stagione di Sassari, che finalmente è uscita dal limbo di indecisione, finalmente è ingranata, è prima in classifica da ieri, insomma. Sì. Qua. Grazie Fabio. Grazie, Sassari, che è vicino al cuore di Zara tutt'oggi, no? Sì, perché ho fatto 3 anni, i miei primi 3 anni in Italia. Lì. Sì, e non può che farmi piacere che Sassari finalmente andasse in A1, anche se ai miei tempi, fino a poco fa, la famiglia Milia era quella che gestiva la pallacanestro sassarese e sarda. Loro purtroppo non ci sono più nella pallacanestro, ma città di Sassari e Sardegna merita di avere una squadra in Serie A. Senti Zale, vorrei tornare un attimo sul discorso allenatore italiano per la nazionale italiana. In questi giorni si è fatto il tuo nome a proposito di una panchina importante come quella del Fenerbahce di Istanbul. In crisi, in difficoltà, in campionato come in Eurolega, su quella panchina siede Boša Tanjević, che è anche allenatore della CT, della nazionale turca, Turchia, che ospiterà i prossimi mondiali, quindi evento storico e sotto grande pressione. Anche in Turchia Tanjević sulla panchina della nazionale turca, nonostante i risultati che ha ottenuto, non è visto di buon occhio. Purtroppo io sono stato in Turchia, anzi per fortuna che sono stato dal 98 al 2000, ma purtroppo scuola turca di pallacanestro non che ha prodotto grandi allenatori, purtroppo per loro. E Tanjević è andato come un allenatore blasonato, che tra l'altro ha vinto sia Coppa dei Campioni che europei per la nazione, è andato a dare una mano alla loro scuola. In questo momento si trova in difficoltà, visto che è incaricato di allenare anche la più blasonata squadra dello sport turco, cioè Fenerbahçe. Sì. E sono entrati in un vicolo cieco da dove non è facile uscirne. Non è facile uscirne, soprattutto per il doppio ruolo di Tanjević. Hai avuto contatti comunque col Fenerbahçe? Sì, ma io ho avuto anche nel 2001, sono stato a parlare con il loro presidente e dovevo tornare in Turchia, diciamo, già dall'epoca siamo in buoni rapporti e i contatti, ma lì è problema decidere come loro pensano di andare avanti con l'attuale squadra, certo, e l'attuale allenatore. Tra l'altro, scusa Carlo, si è fatto anche il nome di Cesare Markowski per un'altra panchina di cui abbiamo parlato, che è quella della Lottomatica Roma, insomma è notizia anche oggi sui giornali, e tra poco chiediamo a Zara una valutazione comunque sul momento di Roma e su questa crisi che, se vogliamo, trova non tantissime spiegazioni, visto il gruppo di giocatori. Evidentemente lì qualcosa si è rotto, però 7 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. Insomma, secondo me in questo momento deve intervenire la società in una maniera o nell'altra, ma in maniera definitiva sulla guida tecnica e su tutte le questioni irrisolte. Roberto Padova, buongiorno. Ah, buongiorno carissimo, un saluto a tutti i presenti, non ho capito bene perché stavo ascoltando due cose contemporaneamente sia in studio, e un saluto, un abbraccio. Io chiedo scusa perché sono un po' in ritardo, sono ancora un po' nelle more, ma il vostro programma è sensazionale, e siccome io ho vissuto un periodo della mia vita straordinario, che adesso ti dirò, se mi permetti il tu per un attimo. Sì. Io ho 57 anni e ricordo grandissimo Dagmo, sì, Korać, sì, il grande Petrarca. Quindi così un saluto a chi ci sta ascoltando, che magari sente un brivido nel cuore perché il famosissimo palazzetto dello sport Trattini ha vissuto delle serate memorabili con grandissimi giocatori. Il grande Simmental, sì, insomma la cosa divertente è che queste grandi piazze un po' stanno tornando, no? Zare è tornata a Venezia con grandi ambizioni, c'è Verona che riempie il palazzetto e sta provando a tornare nel basket che conta. Insomma, abbiamo bisogno delle piazze storiche. Sarebbe bello anche delle piazze diciamo un po' più grandi, che aumentano il bacino della tifoseria, perché nella mia analisi di 2-3 anni fa tra le squadre di basket ci sono appena 3-4 milioni di abitanti, escluse le metropoli Roma e Milano. Ne quelle di calcio sicuramente molto di più, appena una ventina di milioni di bacino della tifoseria cittadina, perciò nel basket bisogna allargare, e Venezia, Verona magari sarebbero le città ideali per aumentare. Anche Trieste, lavora un po' indietro, sì, a Trieste, però sì, di queste piazze è tornata a Brindisi, e infatti i numeri di Brindisi come affluenza di pubblico in un periodo in cui, insomma, vediamo spesso palazzetti tristemente deserti o semideserti, beh, a Brindisi c'è la coda fuori tutte le settimane. Infatti. Francesco Caserta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno gente, un saluto a Coach Markowski. Solo una cosa, volevo dire che negli anni 70, io ho 50 anni, sono cresciuto negli Sparigi in Miss Simmental. C'era un solo straniero, mi ricordo, Morse e Kenney per loro. Poi due stranieri, Everton e Morse, sempre per noi, io sì. Sono un vecchio tifoso di Varese. Adesso non ci capisco più niente, ma chi sono gli italiani in campo? Cioè, poi la nazionale ce l'abbiamo con Recalcati, forse ha fatto il suo tempo, per carità di Dio, ma Canigiani, se non cambia i regolamenti, che deve mettere in campo almeno tre italiani come fanno in Russia. L'unico italiano decente che è uscito è Aradori, che l'ho visto a Caserta recentemente, ma gli altri non ne vedo ragazzi validi, i soliti nomi, ma... tutti ritriti. Però Francesco, è una cosa abbastanza curiosa. Beh, di Aradori adesso parliamo, però il monte talento a disposizione della maglia azzurra forse non è mai stato così elevato, perché forse, coach, non abbiamo mai visto qui in Italia giocatori come i soliti, no? È vero che sono i soliti, ma sono giovanissimi: Bargnani, Bellinelli, Gallinari. Mettiamoci Aradori, mettiamoci Poeta, sì. sono tanti. Gigli, voglio dire, c'è anche. Il talento c'è, ma direi talento di elevata qualità, perché sì. Avere tre giocatori nella NBA non è da tutti i paesi europei. Il numero dei giocatori che tra di loro competono è basso, come in Spagna per esempio. In Spagna c'è una grande marea dei giocatori spagnoli che creano concorrenza e producono 12 giocatori per la nazionale, campioni d'Europa, campioni del mondo. Quello è che manca da noi. Campionato spagnolo, io non sono d'accordo che è migliore del nostro, ma ci vuole un più vasto numero dei giocatori di casa che competono tra i loro, e così danno una mano anche al selezionatore di scegliere chi è meglio tra di loro. Io non sono molto per aumentare eccessivamente il numero dei giocatori italiani, ma sono per fare stesse regole a livello europeo. E ci stiamo avvicinando. Spagna per esempio come un campionato da seguire, magari come esempio, o la nazionale spagnola da seguire, ha 6 giocatori di casa e 6 giocatori stranieri, a prescindere di quale passaporto sono. Chiedere 10 giocatori come una volta di casa, secondo me, danneggerebbe la qualità. Ma unificare a livello ULEB, a livello europeo, unificare regolamenti di tesseramento, sì, sarebbe ideale. Beh, vedi che battaglie ci sono, sì, qui. Ogni volta si tratta un passaportato in più, un passaportato, sì, in meno, sì, e si crea spaccatura, c'è il rischio di sospensione dei campionati. Vedi che... A parte che passaportato deve avere diritto per giocare alla nazionale italiana, perché io ancora non posso darmi pace che a proposito di Recalcati e in favore del suo operato, Recalcati ha fatto finale delle Olimpiadi con la nazionale italiana, ma non posso darmi pace perché è stata battuta la nazionale italiana in finale dall'Argentina. Giocatori creati nel nostro campionato, certo, come italiani, come passaportati italiani, Ginobili, Sconocchini, che da noi si approfittavano del passaporto italiano e giocavano di casa, il nostro campionato li preparava per batterci alle Olimpiadi, cioè passaportati o non passaportati è una cosa veramente incredibile. Se ha diritto di giocare per la nazionale italiana, abbiamo... Adesso non parliamo degli esempi, giocatori passaportati che hanno rifiutato alla convocazione della nazionale, sì, italiana, sì, hanno detto no, io gioco per la mia patria dove sono nato, e allora non sei italiano. Io dico, passaportato, se sei passaportato ma non vuoi giocare per la nazionale italiana, a quel punto vai nella quota comunitaria. Certo, vai nella quota comunitaria, e allora quel passaporto vediamo quanto vale anche in termini economici, appunto, anche in termini economici, perché sapete benissimo come quel passaporto frutti soldini ai giocatori, naturalmente. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui con noi Zare Markowski. Io stavo anche leggendo i messaggi come questo: tifoso l'automatica, non sembra che qui a Roma si ricordino dei trascorsi almeno dignitosi, vedi campagna questi cessioni disastrosi, non si vincerà più per molto tempo, cosa pensate di Gentile, eccetera eccetera, oppure Roma e Milano sono l'esatto esempio di come distruggere ogni anno quello che è stato fatto la stagione precedente, lasciando strada facile e scontata a Siena, questo lo scrive Roberto, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Di Milano abbiamo parlato almeno un po'. Roma, Zare, come valuti la situazione di Roma? Come ha detto prima coach Peterson, Roma deve essere lasciata in tranquillità, ma purtroppo devono decidere presto. In quella tranquillità durerebbe magari uno, due, tre giorni, una settimana, come andare avanti con il progetto che hanno. Sicuramente non è piacevole il momento in quale si trova la squadra, Gentile, l'ambiente. Io ritengo che quando ci sono sette sconfitte di fila, che sicuramente nella costruzione della squadra qualcosa è stato sopravvalutato, perciò si arriva in questi momenti. Cosa è stato sopravvalutato? Sono le analisi che devono fare loro. Ti piace Roma come squadra? Come impianto? Sì, sì. È una squadra fatta di buoni giocatori, di giovani ed esperti, ma non anziani esperti, perciò sicuramente una squadra che assolutamente non merita appena 6 punti in classifica e da quasi qualificati dopo 3 su 3 vittorie dall'inizio dell'Eurolega di rischiare di non passare il turno entrare tra i migliori 16 d'Europa. Eppure si vede chiaramente che è una squadra di difficoltà anche emotiva, no? E anche ieri sera con il Cesca, insomma, partita che è finita prima dell'intervallo, meno 20, è una squadra che si scioglie subito, è il sintomo di una difficoltà profonda. Sì, questo è molto significativo, che anche la squadra sta aspettando dei sviluppi. Purtroppo si gioca ogni 3 giorni e la squadra non deve aspettare i sviluppi, cosa succede intorno. Invece adesso parliamo di una squadra che invece a me piace moltissimo ormai da anni. Abbiamo uno dei principali giocatori di questa squadra, Matteo Soragna. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. La tua Europa, l'Europa di Biella, come la trovi? Com'è questa esperienza solo all'inizio? 2 vittorie, 1 sconfitta, non male l'avvio. Ti stai divertendo? Sì, diciamo che è un'esperienza diversa, nel senso che io l'ho fatta solo con Treviso, quindi è semplicemente giocare una coppa in un'altra squadra. Per la società è un'esperienza totalmente nuova, è stimolante, perché vedere insomma un gruppo che si cimenta per la prima volta in una manifestazione europea è curioso e stimolante. Per noi non sarà semplice, anche perché abbiamo avuto qualche infortunio di troppo che ci ha tolto un po' di lavoro soprattutto, però insomma per adesso le cose stanno andando abbastanza bene, onestamente. Cosa, si parla molto di Biella in questo momento per l'esplosione di Pietro Aradori, che secondo me è un giocatore ancora con grandi margini di miglioramento, un giocatore che ha trovato a Biella la soluzione anche tecnico-tattica ideale. Lui tiratore, lui grande giocatore in campo aperto, è una squadra su misura per Aradori, che infatti sta facendo benissimo. Sono stato a Biella martedì a vedere la partita e sottolineerei che è stato un bellissimo ambiente, una squadra serena che magari, adesso tornando su Aradori, combaciano in questo momento sia le sue esigenze e la sua qualità con la filosofia dell'allenatore che gli permette in un gioco esattamente quasi fatto per lui di esprimere il suo talento. Matteo, tu sei tornato a Biella dopo diversi anni, però almeno vedendo le prime partite sembra quasi che tu non te ne sia mai andato, cioè sei riuscito a ritagliarti ancora quel ruolo di collante, dando una mano certamente ad Aradori e anche ai giocatori nuovi che si stanno inserendo. Insomma, che Biella hai ritrovato dopo questi anni di assenza che ti hanno visto impegnato a Treviso? Sicuramente cresciuta nell'organizzazione e anche negli obiettivi. La grande caratteristica che fortunatamente è rimasta immutata è la personalità di questa società, cioè è una società che lavora con quello che ha, senza esagerare, avendo un programma e rispettandolo, senza farsi bruciare dal tempo. Quindi è la stessa società, però cresciuta. Matteo, e per tenere coi piedi per terra Pietrino Aradori come fai? No, ogni tanto due parole gli si dicono, chi pensa anche Luca che da questo punto di vista non permette a nessuno di pensare che ci si possa rilassare, quindi Luca da questo punto di vista fa un ottimo lavoro tenendo sotto pressione tutti, Pietro ovviamente essendo giovane è giusto che si goda questo meraviglioso periodo, è giusto che usi il suo entusiasmo per continuare così, ma nello stesso tempo Luca gli fa capire che da un momento all'altro possono arrivare i momenti meno felici e quindi di essere pronto. Comunque sei d'accordo sul fatto che ha ancora tanti margini di miglioramento? Sì, come si diceva prima, per adesso sta giocando usando le sue caratteristiche e ovviamente la squadra glielo permette. Credo che i passi principali per un futuro da giocatore da Eurolega, da nazionale e comunque di alto livello sarà quello di riuscire a plasmare il suo modo di giocare al servizio della squadra, nel senso che quando avrà di fianco due o tre giocatori che hanno tanti punti nelle mani come lui, bisogna essere in grado per, non so, 5-6 minuti di non fare un tiro, ma riuscire a fare magari 3 o 4 passaggi lì ai giocatori, difendere forte, quindi la metamorfosi sarà in quell'ottica lì, cioè di diventare un giocatore di alto livello. Bravissimo, bravissimo. Teo, invece per chiudere, voi come Biella quanti margini avete ancora secondo te di crescita? Ma noi abbiamo fuori Fred Jones, che è un giocatore, è un americano atipico, nel senso che è uno che sa passare molto bene la palla e che piuttosto rinuncia a lui a due tiri per far segnare un compagno, quindi da questo punto di vista lui ha avuto un inserimento molto semplice dal punto di vista del modo di giocare, ovviamente per lui è un mondo completamente diverso, quindi ha ancora bisogno di tanto tempo, purtroppo lui è ancora fuori, starà fuori ancora fino a dopo Natale e questo ci penalizza molto perché avevamo già trovato un buon equilibrio anche con lui. Ci sono margini di miglioramento soprattutto in difesa, credo, in alcune dinamiche di difesa, poi insomma l'attacco, quello se si riesce a difendere bene viene di conseguenza, certo, perché ci sono buoni atleti, ci sono giocatori che hanno punti nelle mani, però ovviamente come tutte le squadre ci sono margini di miglioramento. Grazie Teo, buon lavoro. Grazie a voi dell'invito, ciao a tutti. Grazie Matteo Soragna. Coach, chi ti piace vedere giocare per i tuoi gusti? Chi gioca bene nel nostro campionato come qualità di pallacanestro in questo momento? Ma io penso che Terano gioca bene, l'altro giorno Montegranaro non è andata male con Roma, appunto, ha espresso proprio tutto il talento che ha. Biella, adesso sto girovagando sulle filosofie degli allenatori, per chiaro. Biella sicuramente non è male, Avellino ha fatto una bella squadra che quando gioca in velocità potrebbe essere devastante, addirittura infatti 6 su 6 all'inizio del campionato spiegano tutto. Squadra un po' diversa da quella che avevi l'anno scorso, sì. Un po' migliore? No, non migliore, diversa, proprio squadra che è fatta di giocare in velocità perché le esigenze che ha di Brown di essere seguito sono proprio quelle, che sempre dipende dal play, certo. Molto che tipo di play hai, quel tipo di squadra fai. Squadra l'anno scorso era diversa, questa è diversa. C'è un tuo vecchio playmaker che sta giocando un inizio di stagione fantastico in una squadra che sta avendo risultati fantastici, è Fabio Di Bella ed è Caserta. Io prima di allenare Di Bella, in 2 o 3 interviste, mi sono espresso che l'unico giocatore italiano all'epoca che potrebbe tentare l'NBA addirittura per le sue caratteristiche era Di Bella, perché è velocissimo, perché in uno contro uno al campo aperto ha coraggio di andare fino in fondo. Ho avuto fortuna di averlo, magari anche un po' il mio merito, perché è stato il primo giocatore che abbiamo firmato per la mia Virtus, proprio subito, appena ci siamo concordati, dopo 24 ore abbiamo firmato Di Bella, perché era un giocatore che a me piaceva tantissimo. E dopo i mondiali da quella Virtus è andato a giocare nella nazionale e fare titolare anche ai mondiali, sì, in, sì, Giappone, sì. Dopo le finali, scudetto, coppe, sicuramente ha creato un bagaglio che adesso a Caserta lo esprime in tutto il suo splendore, perciò per me non è sorpresa. Mi auguro soltanto che può reggere lui, perché da lui dipende tutto il resto della Caserta, che non ha scelto un play straniero. Certo. È una delle poche squadre che con Teramo magari che non ha playmaker straniero, vuol dire che tutta la squadra è costruita intorno a lui, anzi con lui come una certezza. C'è Francesco da Perugia che è un ascoltatore che ha una domanda per Zare. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Una domanda al coach. Andrea Crosariol, sia la Virtus Bologna che ad Avellino, con lui ha fatto delle grandi stagioni. Gioca bene solo quando allena il coach o è il coach che ha un potere magico nei suoi confronti? Perché vedo chiavi. Che sia in nazionale che in altre società rende meno di quando l'allena Azzare. Grazie mille. Lo dicono in molti, ma io sempre dico che magari la mia visione e la mia pazienza nei confronti di Andrea è sicuramente un po' più alta e più larga degli altri, magari perché è un ragazzo particolare, perché ci siamo capiti subito come bisogna andare nel rapporto con carota e bastone, e non solo bastone, o no alzare le mani, che è un giocatore che facilmente magari che potrebbe innervosire il resto della squadra o l'allenatore stesso, ma a me va bene così, a lui pure, perciò ci vogliamo bene e son molto contento che l'ho visto all'inizio di quest'anno veramente in una... Anche lui, come appunto Fabio prima, abbiamo parlato di Bella, ha cominciato a credere e essere convinto di quello che ha fatto negli anni passati, e adesso cominciava almeno all'inizio della stagione di esprimerlo con grande personalità. E con una certa continuità, che è quella che gli è sempre mancata. Palla spicchi. Stavamo parlando con Coach Daniele Marcoschi di Andrea Crosariol, ma prima, fuori onda, stavamo parlando anche di un altro giocatore che abbiamo visto in questo turno di Eurolega forse esplodere. Già che ci siamo, Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, professore. Senti, stiamo parlando di Crosariol e dei rapporti splendidi con Coach Marcoschi, che è l'unico che possiede le chiavi probabilmente del rendimento ad alto livello di Crosariol. Prima con Cosmar Cosi stavamo parlando di un altro giocatore che Aleksandar Marić, 2-11, classe 84, vittoria di un punto del suo Partizan sull'FS Pilsen, e lui che ne fa 34 più 16 rimbalzi. Ce l'avessimo noi un ricambio di questo tipo, come quello che ha il Partizan? Se l'avessimo noi sarebbe bello, mi interrogherei, però naturalmente non pretendo di avere la risposta sul perché un anno c'è Veličković, un anno sì. C'è Vesel, un anno c'è appunto Marić, Pekovic, Ketchman, possiamo andare avanti. Sì, Ketchman magari non è della stessa qualità onestamente, però solo per stare coi lunghi o mezzi lunghi trattando così Veličković, io penso che sia una serie di concause complesse, però all'interno di questa serie di concause una considerazione principale è il Partizan vive di questi giocatori. Il meccanismo economico, e lo dico nel senso più apprezzativo del termine, posto in essere, io investo per cercare Marić, trovare Marić, far crescere Marić, promuovere Marić all'interno della mia squadra, metterlo in vetrina e venderlo poi a chi è più ricco di me, che mi dà dei soldi che mi permettono di trovare il prossimo Marić, il prossimo Veličković, il prossimo Danilović, eccetera, eccetera. Io penso che questo sia molto chiaro. Questo è un meccanismo che era in essere qui pre-Bosman, non è più in essere. Quindi se non si rimette in piedi quel meccanismo, secondo me tutti i discorsi filosofici, posto che poi sono ovviamente bravissimi al Partizan ad allenarlo, è bravissimo Marić di per lui, come sono bravissimi i giocatori italiani, però la grande differenza tra i due sistemi a me sembra questa. Coach? Niente da dire, niente proprio niente. Così, niente da aggiungere. niente da aggiungere, però noi ci troviamo con giocatori che hanno qualità, che però hanno rendimento discontinuo. È chiaro, in un contesto profondamente diverso, come, sì, come ha spiegato Flavio, il sistema che crea il risultato finale, perciò il sistema deve essere fatto tutto in quella direzione. Flavio, sempre per restare sui risultati di Eurolega, sorprende la vittoria del Procon su Real Madrid o no? Sorprende, ovviamente, naturale, però ci sono un paio di considerazioni. Una è solo così curiosa, ed è che Quintel Woods una sera all'anno è il miglior giocatore che c'è in Europa, e quella sera all'anno l'ha trovata in due anni diversi contro Ettore Messina, una volta al CSKA quando scherzò il CSKA, che poi vinse quell'Eurolega in gara 1 a Mosca, e il CSKA dovette andare a vincere gara 2 in casa dell'Olympiacos per rimontare in quella serie, e adesso, perché ha giocato una partita al di fuori assolutamente, se a tutte le rotelle a posto cestisticamente parlando, è un giocatore completamente fuori categoria per l'Europa. L'altra cosa è che non è una novità per le squadre di Messina, dopo un grande ciclo, cadere contro avversari teoricamente non irresistibili. Penso a una sconfitta in Francia di qualche stagione fa, penso alla sconfitta di Milano l'anno della scorso. Passata stagione. Sono cose che succedono, e sono cose che secondo me fanno parte appunto del sistema, di come vengono allenate quelle squadre, del punto di equilibrio fisico ed emotivo che a un certo punto all'interno di una stagione ha un calo, e ha un calo improvviso magari anche quando non hai tante motivazioni, fisiologico quasi. Flavio, invece, andando in America, a parte i 20.000 punti raggiunti da Ray Allen in carriera, che è un giocatore a me piace moltissimo e quindi non potevo non ricordarla questa cosa, insomma, cos'altro da segnalare? L'esordio di Iverson, per esempio, che è arrivato in ritardo alla prima partita dicendo che c'era traffico quando gli altri erano già tutti lì. Balotelli è un dilettante. Tutto normale, insomma. Balotelli è un dilettante. Poi ci sono le serie dei Lakers, 10 vittorie, dei Celtics 9, dei Knicks 3 e degli stessi Philadelphia 76ers meno 11 invece. Esatto, ma ci sono grandi serie, ma non trovo continuità. Ci sono squadre che hanno perso per un sacco di tempo come inizio, adesso vincono, squadre che hanno perso moltissimo come Toronto, adesso vinto, squadre che hanno straperso, adesso stravincono, 8 delle ultime 12 come i Memphis Grizzlies. Boston nelle prime 5 e nelle ultime 5 è sembrata la miglior squadra dell'Est, Cleveland nella parte centrale è sembrata la miglior squadra dell'Est, non all'inizio e alla fine. Direi che siamo in un campionato particolarmente fluido e in cui i valori si assesteranno secondo me solo dopo lo Star Game, anche per la elementare considerazione che ci sarà molta attività durante la settimana dello Star Game, con trade e contro trade che potrebbero cambiare in maniera abbastanza sostanziale il panorama, perché basta che si muova una corazzata, che ne so, diciamo Cleveland fa un movimento, a quel punto Boston fa un movimento automaticamente, Orlando fa un movimento automaticamente, perché così è il mercato NBA. A proposito di NBA, di All-Star Game, Flavio, per chiudere, sapevi che saprai sicuramente che Bargnani attualmente è terzo come voti ottenuti nella categoria centri? Sì, lo so, penso che la produzione di Bargnani sia tale da garantirgli un posto tra i primi 4-5, anche in seguito speriamo che quei voti siano molto provenienti dall'Italia, perché sarebbe un buon segnale per tutti. Sono peraltro sicuro che il giorno che va allo Star Game Bargnani, se ci va convocato dagli allenatori tra le 7 riserve, è molto più contento che non se ci va con il quintetto popolare. Grazie Flavio, a domenica. A voi, saluti. Ciao Flavio. Grazie a Flavio Tranquillo. Io invece volevo salutare Cosdare Varkowski, ringraziandolo naturalmente, chiedi un parere su uno dei suoi grandi amori che non abbiamo ancora toccato, la Virtus Bologna. A me piace coach, mi piace la squadra, mi piace l'allenatore, mi sembra una squadra in crescita. Io devo soltanto, anzi sarebbe contrario alla mia persona, non voler bene alla Virtus, a prescindere chi la allena, chi la conduce, chi la presiede. Perciò migliori auguri alla Virtus. Ma ti piace Virtus? Sì, sì. Sta trovando strada facendo. E se anche... sono stato innamorato. Collins intanto tesserato, quindi potrebbe rientrare a breve. Collins della Virtus tesserato e quindi potrebbe al posto di Scooney Penn, e vedremo, secondo me è una squadra un po' diversa da quella attuale. Grazie Cos, torna a trovarci. A tanto abiti qui vicino. Con piacere. Grazie Cos da Re Markowski, grazie a Flavio Suardi, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadorni in regia con lo sport. Torniamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6.